Ma può essere una bellissima idea. Io ho sempre fatto tanta beneficenza, mi sono sempre prestato alle iniziative di beneficenza riguardando il terremoto dell'Aquila, l'alluvione che si è fatta, che è successa l'anno scorso in Sicilia. Quindi sarei vicino anche vicino a questa cosa, però io posso dire facciamolo. Pronto a mettersi i guantoni. Massimo al 100%.